Attenzione, signor Battisio! Attenzione, signor Battisio! Oh, signor Battisio! Attenzione, signor Battisio! Bella Giomarì, buonasera! Buonasera! Vedi un po', ti lascio la portanza se c'è la tornata! Nuda Giomarì, non ce n'è! Ah, sai che c'ho, corrente sull'antenna! Era solo riuscita a sapere da dove arriva. Allora, se c'è corrente sull'antenna, deve fare un travaglio che va giù io a scaricarla. Anche io ce l'avevo. A caso mai... Ah, con la stessa cosa. Sulla 12 volte c'era gli accendi cacciavite. Sì. Scaricare, scaricare, scaricare, Giomarì. Devi scaricarla con un filo attaccata all'apparecchio. Un filo? Eia, devi scaricarla. Perché l'elettrostatica è. È l'elettrostatica che te lo sta dando. L'alimentatore deve essere comunque. Io pure ho pensato all'alimentatore. Ma ieri sera c'era, no? Allora, ho controllato tutto, ho tolto tutta la corrente, ho controllato le pile, allora ho rimesso e non ce n'era più. Stamattina ho provato e non ce n'era più. Adesso c'è la corrente di nuovo. Strano, Ma attaccato all'apparecchio nulla c'hai, qualche filo di massa non ne hai, no? Ho capito. Attaccato all'apparecchio, filo di massa c'hai? Sì, c'è un filo di massa. Devo provare a distaccare la massa. No, non staccarlo, no. E allora è l'alimentatore che ti sta dando corrente in cose. Sta scaricando sui cavi del coso. Ti sta dando corrente quello in più. Elettrostatica, Adesso vedo un poco. Un'altra volta me l'ha fatto. Ma da molto, anni fa. Sulla terra c'era cazzo, le due vite. Però l'apparecchio non vedete niente. E quella è una cosa strana. Ma due venne, no, ma leggera la scossa che ti dà. Ma ci mettendo i cacciavite, che puoi me adesso, c'è la 12 volte i cacciavite non puoi dovrei accendere, poi c'è accendere cacciavite. Prova a cambiare la spina dell'alimentatore, prova a girarla. Ho fatto a girare la stessa cosa, almeno là. Io l'ho rigirata ieri, l'ho girata adesso. Sta scaricando fuori, sta scaricando anche. C'è qualche cosa che... O è l'apparecchio che sta scaricando, o è l'antenna, Giomarì. Ma non penso però che sia l'antenna. Perché se c'è antenna se c'è corrente sull'antenna, lo risente l'apparecchio anche. No, è l'alimentatore sicuramente. Sta scaricando fuori anche l'alimentatore. Io pure ho pensato all'alimentatore, io ne ho due alimentatori, l'altro invece non ce n'è corrente. Invece se quello è nuovo, me l'ho preso l'altro giorno, quello ci vedi da 32 ampere. Cazzo, e ho visto che c'è la corrente. Dalle mani mi sono accorto. Però ripeto, alle mani ho girato tutto, ho controllato anche la presa, tutto, anche la massa che c'è, che avevo fatto, che fa fare. E poi ho messo a posto, ho provato e non ce n'era più. Stamattina l'ho provato e non c'era più, adesso c'è di nuovo. Cos'è? Buonasera, signor Bacchi. No. Buonasera Gian Maria, buonasera Tore, avanti. Ciao Bacchi, buonasera. C'è questo problema. l'apparecchio sta funzionando bene, gli servizi alternati non ce n'è, non lo so, e accende il cacciatrice sull'antenna e... Giammarì, no, prova a mettere il cacciavite sull'alimentatore. Giammarì, non gonfiera, ci compro. Bacchi, dammi un rapporto. Io vai avanti che ti guardo, ti faccio la radiografia. Ciao anche a Giammaria, ciao anche a Tore. 1, 2, 3, vedi un po' Bacchisio come sto arrivando. 9, 10, 5, radio perfetta. Ok, dai, no, volevo sapere quello. Riprendi, Bacchi. Grazie, contraccambio 5, 9 più 10, sì. Ciao, ciao. Avanti, stavo dicendo, va a mettere il cacciavite sull'alimentatore, Gian Maria, a ver se c'è corrente. Sulla 12 volte, c'era 220, c'è, ma c'è del cacciavite, c'è la corrente. Sopra l'alimentatore, tocca con la doveccia del ferro e con il cacciavite, mettilo e a ver se si accende. Adesso l'ho provato. Il baristrano. Ah, gliel'ho detto, perché l'ha girata 3-4 volte. Bum bum, andemmo e andemmo. Ah, faceva. E speriamo forse un po' di vento dormi, saluto. Perché non ti va, che ci ha fatto che offende ancora. No, saluti, mi siamo già carregata. Qui, se no, siamo delusi. Aveva una brutteggia, era a voce. Mi si bussava pure a me, Certo, anzi che come se fosse il vento. In se si punta era freddo, proprio. Che faccio pure un riscaldamento a Cisù. Ha già acceso un riscaldamento da oggi. Io ho già acceso giù i condizionatori. Infatti. In Sinanzio l'avrà via un gozo in cucina, lo gozo acceso va via. Giammarì, cosa è successo a Giammaria? Che c'ha corrente sull'antenna. Lei dice che ce l'ha anche sull'alimentatore, adesso... L'ho mandato a vedere se c'è ancora. Corrente sull'antenna. Eia. Ma la faceva anche a me. Sull'antenna. Però non questa qua, l'altra. E lei a provare a invertire la spina dell'alimentatore a vedere. E gliel'ho detto. Gli ho detto di provare a vedere se ce n'era ancora di corrente. Se accendeva il cacciavite. Allora non c'è massa, c'è qualcosa che non va. Di invertire la spina, a dirle. Ve la giudizio. Ah, speriamo che sia così. Avanti, signor Bacchi. Invertita l'ho fatto. Avanti. L'ho invertita la spina. E te lo fa ancora. Ehi, allora c'è qualche cosa nell'alimentatore, Giammarì. Infatti, può essere anche l'alimentatore, Giammarì. Prova a cambiare alimentatore a vedere. Può essere qualche problema sull'alimentatore, capito? Qualche finestrino tocca che non tocca, cioè, al momento già da un momento no. Aspetta, ma fin di lunga c'ha vite? No, c'è... no, si vede un filo, c'è già sta maglia, si fuggi un filo sardente, poi si andrà a finire in ammazza e si è buttito. Si dice che l'ha comprato nuovo quando è arrivato tre giorni fa. Ti è arrivato nuovo? Sì, gli è arrivato nuovo. Da dove? Alimentatore da 32 ampere. Ah, 32 ampere. Grazie, bello. Strumenti, zero. Ah, non lo so cos'è un altro strumento. Boh. Tu sei strada, non c'è nessuno che non si fanno gli acquisti. Devi lasciare Sarrado. Franco! No, già ci sono, mi sono spostato un attimo, ero stavo facendo cosa. No, io ho quello stabilizzato con gli strumenti qua. Io ho questo, ce l'ho già un paio d'anni ed è tranquillo. Allora io ne ho uno, ce l'ho un 48, credo 50 anni, della ZG, 5 ampere, 15 watt, 15 volt. Anch'io ce l'avevo, ma non funziona più. Beh, ne ho uno da 5 ampere dell'Alfenox, di chi si bizzanti un bel. Io ho cambiato le caratteristiche, per carità, sempre cercando uno del migliore, è sempre l'aga vera. No, questo che ho comprato io, che fa da 30 a 32 ampere, c'è scritto, ed è coso Telecom. Ed è buonissimo, col display illuminato e digitale, ed è buonissimo, ma ormai fastidio da quando ce l'ho. E già, sì che ti sento, avanti. Ah, ti sento in mezzo al QRM, ti sento. Chi sei? C'è la QRM, ehi. Poi non ci sia, che ci sia la massa. Ma Marino sì, Bruno sì. Boh. Vicino a me non può essere, che se non mi arrivi a fondo scala, ma no che mi arrivi Santa Rosetti. No, sono Santa Maria di Pisa. Mi stai arrivando Santiago 7, anche se sei dentro qua, mi dovete arrivi 9. Invece no. Vuol dire che non sei. A volte mi arrivi forte, a volte ti si abbassa tutto in una volta. Vuol dire che l'antenna non è messa a massa bene. Dovresti arrivare forte a Bacchisio anche. Bacchi, a te come ti arriva Bruno? Sì, è meglio quello di me. Certo, figuriamo. Ciao Maria, rientrato sì. Maria sta facendo la collezione della corrente. La sta tutta raccogliendo i sacchetti per quando manca. Fazebe, andiamo. Franco, ancora visi. Riprende Bacchi, Franco si è allontanato. Sì, è allontanato, E Marino, si è sentito stasera? Tutto lì, ancora fresco. Ancora presto a Cerassi Marino. Cosa ne so, il gallo gue. La carriera Zè. Ma ce l'ha in carriera Mondelli. Ma sai quanto è contento il trovento d'oggi? Chi non ha fatto nulla? Inizia da una base e finisce sempre a medaglia. Il Molinello avesse abbonato contro Montone. E dove magari andava a prendere la barretta, ma con l'inile si sicurava. Sicuro sì. Ti ha fatto beffa i nonni? Un bel di papino, di nonni, frulli, non si può camminare. Me lo immagineggio. Me lo immagino come... Il vento ci vuole, ci vuole tutto. Però, alla bassa, alla muoia, le usciacche che viene, se continua a fare le usciacche che c'è il vento. Sino a domani ne avemo, poi da lunedì dovrebbe tornare a cambiare. Speriamo che cambia. Allora mi pare che tutta la saggetta pure ne avemo. Forse che c'è chi vu. L'importante è a 6 anni e 9 freddo. Io con Gian Maria siamo combinato qualcosa, Gian Maria non ha combinato nulla. Sarà ci hanno vendi ancora gli alimentatori? Avrà pigliato un altro. Sì, ma la bastava in sinti, le cose, la spina, tutto sopra senz'altro la ciabatta. Sì, la ciabatta in una tabrice le ha posto. Sicuramente. Non lo so da dove stia uscendo, boh. Non so nulla. Ciao Mario, ci sei? Ma almeno per provare, dici, è questo il difetto. E so che quel difetto è cambia tutto. Infatti è così. Io da quando ho messo quella massa là non me ne sta dando più scossa l'antenna. Ecco, sai, magari questi qui li tira di via, ma si sfilacciano e ne c'è una fuga. No, già è fissa l'antenna lì, coso. non la giù più toccata. E quindi no, no, non me ne sta dando più. Avanti, chi è questo bip? Sto provando un'altra radio, sto, scusate. No, mi piace un bip, no, buttacelo. Allora, no, togliamo, guarda adesso. Va bene così? Ma va, sei dopo. Ok, dai, la lascio così allora. Non sto facendo una regolazione qua, ma... Ehi, ehi, ehi, andiamo per andiamo. Avanti, signor Bacchi. Il terreno inquinato. Signor Bacchi. No, è male, le cose mi sembra siano sporcate. Andiamo bene. E beh, Franco, ancora a consegnici. No, no, accordato, dai, già va bene così. Ok. Importante che non ci siano stazionari, capito? Stai uscendo male con il microfono. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Adesso è pulita. Ora, 1, 2, 3, 4, adesso andavo a tiro questo rosmetro. Eh sì, andiamo dove andiamo, signor Bacchi. Speriamo. Ma ti faccio a tutti che ci ha fatto oggi. Ma ne prendi le forze, mi sono i trentenni, anche buttato la via, alle 3:05 ancora. Andiamo bene. Non ce l'ho io, c'è stato vento, sono a capolibero. Io se no non ne do che di vento. Certo. Andiamo a fare a mulinello. Ma va. Siccome non è tempo di piani, dico. Così è, signor Bacchi, vabbè. Fa caldo non siamo contenuti, fa freddo non siamo contenuti, c'è vento non siamo contenuti, c'è la pioggia non siamo contenti, c'è Andrea che sta compiendo tempo. Ma ti viene di la bellemma, va? Lei sta compiendo tempo, no? Bisogna prenderla come viene proprio, è mista, un po' viene di tutto. Infatti, bisogna fare così, bisogna fare. Se la bella è momista. Comunque ha dato vento sino a lunedì, È da ieri che c'è, quindi ieri, oggi, domani. È lunedì, no, lunedì dovrebbe, no, non ce ne dovrebbe essere più perché dura 3 giorni. No, ha dato da lunedì in attenuazione, quindi questo è il vento da nord-est. Sovramodulazione, avanti, avanti, favidami, avanti, Tore. Per giubbare dice non favidami, e noi già siamo qua, signor Bacchi. Franco, Roma Pesci, già è Noghi, Noghi Zebra. E K, dai, ho sistemato perché stava facendo rientro con le cuffie, capito? Anda bene. Allora già ci sei. Avanti, signor Bacchi. Ehi, vai, vai, tu stendi, stendi il gruppo, dove va? Meglio così. Meglio così. Allora, le cose. No, abbiamo sino a lunedì, Tore, hanno un muro che da dentro, che è coltivato da me. Un po' di acqua, un po' di vento, un po' di vino. Ma io non so cosa dite, signor Bacchi. Come ti è? Come ti è la bellemmo? Ci andiamo a Ciocca, a Faramo, a Liberatorio, a Sili, a Rubita. Tutto le vemmo, che lo cedo. Cosa vuoi che ti voglia, signor Bacchi? Io sto, piazziamo la bancarella. Piazziamo la bancarella, facciamo la concorrenza a quelli della Sisa. Ci siamo andati bisogno di bancarella. Stanno dicendo a gli esami che fanno online. Grazie. È così. Ma questo dono lo può fare sommario. Ciao Maria, lui va così. Io voi andate a Milano, è andato in fabbrica. Aveva fatto fare un coso, l'alimentatore e mi aveva pure allegato. Deve essere che sta cambiando alimentatore, è andato a pigliarlo e vai e attacchendo. Dai, ha perso l'aereo, ha perso la coincidenza. Ahahahah, avete fame? Così è, signor Bacchi, vabbè, già arrivi subito rotto. Ho appena... Tra un'ora siamo al lutto. Allora, vuoi essere quello morto uno, capito? Ma la mangiavo io. Ma la sente a dieta. Chi è a dieta? Chi è a dieta? Ha già detto, non sei da dieta. Ah, signor Bacchiso, mi pare ci si abbascende. Vero, signor Bacchi? In coltelli mi gioco. Ha già detto io. Aspetta che andiamo bene. Attento, Marino, Cicu. No, Cicu, sentito lo francese do, è andato in Francia. E andato a Santa Robonti. E dice, lo francese ha presentato, dice, papier, e non da rito. Papier. No, dici, prendo i cagagli e mi ha con un marraccio. Infatti è così. Magari non rientendi, avrà l'apparecchio serrato, sarà con un imbuti. Ma sicuro se io prendo con un imbuti. Provarsi anche un giro di nipotino, non fa male a nessuno. Avanti, signor Fra. Boh, Marco Franco, vè. Andiamo. Ehi. Avevo fatto tante cose, ma non la giocava. Non avevo voglia. Devo trovare la caffettiera. Ci siamo bruciati i fusibili. La giambata si è trovata bruciata. E allora, per che cosa? È andata in corto. Io invece stasera era a prendere un computer portatile, se arrivi da un pezzo la giudura da serra, ma non funziona più. E quella della serra, e rubito c'è il culo una base, c'è la bella che tu paesi. C'è un momento andando a Baido e a Baida mi ha già appunto qualcuno su un da mano. Oh, io guardo, devo guardare se ne trovo qualcuno a seconda mano. Guarda, ci deve essere staccato il connettore dell'alimentazione interna. Dove? Di quel portatile che è aperto. Sicuramente no, vado a schiacciare il tastino e non accende. Prima si accendeva, partiva e si spegneva. E allora c'era un problema sulla ventola, sulla ventilazione del raffreddamento. Soffiato tutto quanto e non riprende. O sono il RAM che mi rubate il sudà? Non lo so. Con la batteria, provate a staccare la batteria a collegarlo direttamente sulla corrente elettrica. Fatto. È la matrice gosa. Ti si spegne dopo di quanto? Subito? Come accende? 2 secondi si spegne. E allora è probabile che ci sia o è la ventola che non sta andando oppure magari c'hai sovraccarico di RAM. No, sicuramente no, la ventola funziona. Sicuramente è il coso del RAM. Certo. Io vado domani, dorò apri, smonto le viti e guardo sotto dove c'era l'interruttore, che non si è messo bene i cavetti. Dite che quello più grande, no? Cos'è? Che quello grande? No, il computer è portatile. E qui da terra. Ci ero qui da terra, arrivederci. Vedrai che funziona, al 100%. Io ne ho uno HP che non so quanti anni va, sempre andendi. Dico, si mette a casa un bel caldi, scalda parecchio, allora l'ho sollevato io per raffreddare bene. E invece in queste settimane mi ha dato problemi. Scusami una cosa, ma tu hai pulito la ventola, ma anche il radiatorino che c'è dentro, dove passa il calore, anche quello è pulito. Ehi, ha tutto soffiato. Ho soffiato con il coso, con l'aria. Ho capito, comunque se non accende deve essere qualche connettore che si è staccato. Perché quello c'ha due connettori, uno quando lo apri che si accende lo schermo, quando sollevi, e poi quando abbassi si spegne, però ce ne deve essere anche un altro dell'accensione. Deve essere che come non l'ho messo, toccato le cose di quei due, quelli, come si chiamano, fili di quelli fini che sono rigidi, se devi entrare a fuzza. Ho capito, controlla quello, sicuramente quello lì staccato. E domani tolgo le viti e lo apro sopra. E già si può risolvere, non è un problema quello. Se non rubi di telefono abbassi, e abbai due ginnacci a poco con una seconda mano. Io seconda mano non ne comprare giù più computer. Boh, finito. Ma cosa? Ho troppe fregature, ho preso quel computer seconda mano. Infatti io non ho mai comprato il computer portatile, ho mai comprato sempre in nuovo. Mille problemi. Ne avevo uno e tutto a terra. Ma di che maniera sei tu? Andiamo a vedere. Hai preso il signor Macchi? Mi ha portato il mio cugino. Ha funzionato 2 mesi, 3 mesi e poi si fa un ragno. Ti sei pure allora. È andato dove è andato? Cosa ci vuole a ripararlo? 1700 euro. E di là alla saliva, è gallo guè. Mi ha già ritirato, è classe, ha mutinato i siti. Con 1700 euro me ne comparei giù tre. È un coso. IBM. Sarebbe il fratello di quello che avevamo in mano l'altro giorno. Però questo piccolino che è un mostro. Non ho capito, signor Bacchi. Stavi dicendo? Quello dell'altro giorno è piccolino. Invece questo è un mostro. Oh, ma di cosa? Di computer? Computer. Allora, la pallina, lo cerco e gli faccio il fosso e lo sotterro. Esagerato, e già va bene lo stesso. Anzi, ci vuole, costa più la scheda madre e tutto quanto la parola, perché il valore è qua, l'altro non servono niente. Ma dalla salinga lo gue. Io adesso domani mattina guardo, se no il buon Grugori impazzi. Per un momento già faccio chi domanno. È una cosa, se ne alzi il buon mattino, presto, a mente fresca riusci a farlo. Sì, a mente fresca andava. A mente fresca, riesci a farlo, se no nulla. Infatti. E così è, signor Bacchi. E poi se vuoi svegliarti presto, se ti sveglio io. Tu mi dici a che ora vuoi venire a suonare di campanella a casa, vengo e te lo suono. No, signor Bacchi, già sono ugualmente, mi sveglio da solo. Su mangiare mi sono riuscito a dare sì, pensa un po'. No, non ci credo. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. No, così è troppo ghizzo, signor Bacchi. Sì, è troppo ghizzo. Passati i giochi si tempi ormai, bisogna minare tre. Chi c'è, avanti. Non ti ascolto, mezzo pio, chi sei? Non sono riuscito a capire, Malino sì, alla numerazione siamo in Malino. Santiago 1, radio quasi impercepibile. Cambia antenna. No, non è Marino, no, è Bruno, è. Che è? Lo chiamai, io ti ascolto, Bacchisa ti ascolta in mezzo al QRM, e vabbè che ce n'è parecchio di QRM oggi, con questo vento ce n'è parecchio. Ma dove ce l'hai appoggiata? Sul tavolo, dove ce l'hai appoggiata? Termosifone c'hai vicino. E non ci arriva. Mettila sul termosifone. Bene va, signor Bacchi. Sì, ma adesso vediamo se va bene. Gian Maria, è entrato. Attenzione Gian Maria. No, io ti sento. Bacchi, come lo senti? Un po' meglio. Vedi che è migliorato adesso. No, dipende da come, in che posizione sei della stanza. Ecco cosa è. E vabbè, dai. Che avanti vuol dire che ti metti un'antenna sul tetto? Vabbè, un poggiolo non ce l'hai. Una boomerang la metti. una bombola buona da Fusaro, non so quanto costa, ma da Fusaro dice che ne sta vendendo parecchio. Infatti fai così, prendi una e te la metti sul poggiolo, la metti con un palo da un paio di metri, 2-3 metri. Infatti te lo dovresti cercare uno. Vabbè, aspetta che facciamo entrare avanti signor Bacchi. Vediamo se è arrivato Gian Marino. Gian Maria, boh, arrivi da niente e non può entrare, boh. Mi pare che sia finito il vento, se montiamo la stufa mi congeleggio. Andiamo, ve andiamo. Signor Marino, non si intende il manco. Marino, prendi il cammino, avanti ciò. E fate così. Franco, ma pure Franco si è allontanato. Che mi si granchisco un po' le gambe, immagino anche lui. Bruno, ancora ci sì. Fai così allora. Fai così allora. E vedrai che esce più bene. Eccolo. Allora, signor Marì, buonasera. Buonasera a lei, buonasera anche con gli altri componenti, avanti storia. Sono il signor Bacchiso, sta andando a sganchisci le gambe, ha detto. Lavora, meglio così, dai, chi c'è? Tu Bacchiso poi? C'era Franco, ma non so che si è assentato, c'era Gian Maria, è andato a cambiare l'alimentatore, non sente su più. Attenzione, Gian Maria, ha detto che non ve. Riprendi Mari, riprendi. Ma te l'ho detto io. Te l'ho detto che il maestrale si alzava forte. E quanti giorni è? 2 giorni? Sicuramente domani, lunedì, si avrà a Caimà. E ora? Uia. E se non casino? E va bene, anche se si voleva. Meglio gai, avanti. Meglio gai. Se lo vuoi è così, se no te lo tieni lo stesso. Quindi poi sta lì insieme, sempre quello sempre, non vengo in là. Com'era un'occhiola, bella pulita, sì? Caspita, non l'ho mai intesa così pulita. È il polvere del vento, sa per quello. Ah, quando fa il vento funziona più bene. Ecco che lo sai, perché la un'occhiola va da un cosa all'altra, capito? Infatti. Meglio così allora. Gigante. Vuol dire che sta facendosi un giro. Fa bene, meno muovere le gambe, sono uguali. Io sono la luce del sole, sono la luce, meno si muova. Io guardo. Ma ho sentito, mi stavi chiamando da Bruno per tanto, non sbaglio? No, stavo parlando con lui. E io parlo sempre, ho quel REM a 7, figurati. Mi danno portate una sera fine dietro a casa, ma dopo lui aveva anche un primo piano e fece ancora. Avanti, signor Bacchi. Buonasera a Marino, buonasera anche agli altri che sono entrati, avanti. Buonasera, signor Bacchi, sono entrato, mi ha alzato. Le gambe come vanno? Capito l'uomo lì? Come vanno le gambe, sono da Chisio? Tutto a posto? Le morti, sì. Non mi fai adirare quando fai così, mamma mia. Vediamo di fare l'affetti. No, non ti chiedo nulla, ma chi non ti chiedo nulla, non so, dai. Buoni pazienza questi giorni, ma chi dai, un paio di giorni sei a posto, dai. Bene, avanti sto. Sì. Bisogna avere un po' di pazienza. Vabbè. Piano piano e sempre andendo. Non ci devi pensare, non devi pensare a niente. Ragazzi, avanti, va qui. Ma te l'ho detto, piano piano la sempre trombando. Una cosa, una parola. Lo so. Ogni tanto c'è lo casino fuori, stiamo vedendo un po' di movimento, stiamo soltanto un po' di roba. Ecco la che arrasta il vento, va qui. Via. Piano piano. Ma penso, ce n'è che ci vuole lì. Ti ho detto che sta soltanto tutto quanto, sono seduto e ritorno sento dei rumori strani. L'antenna dov'è? Invece l'antenna è andata una barca all'acqua. L'antenna ti l'ha buttato? No, grazie a Dio già è stata bene. Ma la muove, la piega da un punto all'altro, la sta piegando. come il palo lo puoi pregarlo che è un palo di tubo di... è un tubo di ossigeno, ma un tubo d'acqua, dunque atterrarlo è un po' difficile, capito? Atterrarlo è un po' difficile, se lo riesci da sotto non tronca. Andiamo. Allora invece non ha vento. No. E non che faccia un mulinello, effendi. E sei tutto aperto, detto, tutto aperto qui. Infatti, così, è tutta bella, si abbassi. Sì, va bene, va. Andare tutto dopo, si dice. E vediamo se c'è Gian Maria che sta provando il caleventatore. Gian Maria è andato a Corso a Milano a prenderlo. Oh, io. Ma sei, che prova a cambiare il parecchio qua, vediamo intanto a cambiare, dai. Continua a togliere il cambio. Oh, lascia gli su, cosa cambia? Lascia gli su, ma continuando più bene, intendo. Intenzionato, non ti piace, no? Ah, ciao, mi. Ah, si non prende nulla. Lascia quello che c'era. C'è un lato acceso, per quello non capisce nulla. Dai, già si capisce, dai. Ah, signor Bacchia, te ne immagineggi? Pio, chi era questo? Luca era. Mi sembra. Io non sono proprio specializzato in motivazione. Cosa stai usando, Marì? L'ultimo. Abbassami le voci. Stiamo usando la voce bassa e c'ho il microfono staccato meno 50 cm, figurati. Non ti piace questa modulazione, Bacchi? Troppo bella, troppo bella. Limpida, chiara e forte. Ma a te non ti piace? Andiamo. Cosa stai usando? Un 7? È un 7. Non ti piace, no? Va bene, limpida, chiara proprio. Avanti, tu, come lo senti tu? Era meglio che da che va via prima. Era sincera quella là. Il è troppo voce. Dopo forte, come vai? Aspetta, la cambio, vai. C'era incicciata, no? Incicciata, Tu l'hai incicciata, io già intendo bene. No, anch'io lo sentivo bene. Solo che era troppo voce. La potenza c'è, Tore, la potenza c'è. Lo so che c'era la potenza. E beh, Maria, avanti. Non si piace, là. Sì, poi me si lasciai vedere, erano mattissimi. Io ti agito, tu hai giambato, mi giubatte. E mi hai detto di cambiare, mi hai detto. Quello lì, mi hai detto cambia che non mi piace. 14, stai usando? Dove, da chi? 14. 14 cosa? Sto usando il 14. Sì. Andare. Va benissimo. Avanti, signor Tore. Eia. Andiamo. Sì, che è così. Poi c'è una voce che stavo sentendo chiamando. Avanti chi stava chiamando. Avanti si è abbassato di ruduto, ti si è abbassato. Allora Santiago 7 con la radio quasi a 00. E ok, già siamo qua. Avanti signor Marì. E chi era o... Bruno, non so se l'ascoltavi. No, non l'ascolto, c'ho QRM a quasi a 6. QRM a 6, non l'ascolto. Ma cosa sta usando? Un portatile, cosa sta usando? Otto? Io non lo so, l'antenna della macchina deve essere, boh. No, io non so, ma sono QRM 6, quasi 7, giornale, guardi. Ho usato il QRM e non l'ho tolto, niente, nulla, 0.0. Mi dovrebbe scusare, ma non si ha tolto. Avanti, ho battuto. Ehi, QRM a chilometri, non si capiva niente. Vediamo un po' se riusciamo a tirarlo fuori, avanti. Scusa, Tore, riprendi. Era già che lo sentivo così io. Pensa un poco, figuriamoci tu. Andiamo male, Maria. Lo so, ma che andiamo male, sì, oia. Oia. Ma che cosa ci vuole? Ci vuole anche la torta, sto. Te l'ho detto io, tieniti riservato. No, è una torta allergica, dunque, ogni anno questa qua. Prendo un antitaminico e poi mi viene lo sciroppo, ma sta aumentando. Ti stavo dicendo, stamattina mi sono fatto registrare il codice fibale, la... come si chiama? Napoli, adesso non mi ricordo. La terza la sanitaria della farmacia, tutto hai fatto registrare, a testa la sanitaria, ai brani quasi ogni agghita da me. Ma ti hanno dato il coso per le piccole cose porta testa? No, non me l'hanno mai dato. Perché non si è registrato, sinceramente. Vedete, la testa sanitaria, il documento, lei si registra al computer e poi ci dà il codice PIN insieme al posta, come si chiama, tipo un conto, dai. Va inserito la testa, entri sulla roba sulla sanità e controlli tutto quanto, le ricette, le visite, quando sei gli appuntamenti, tutto, dalla testa. È una farmacia, così è, una farmacia del latte dolce. Ogni farmacia deve andare, ogni farmacia. Io ho fatto la finanza dello Stato, di Chiesa Azzurro, stamattina, l'ho fatto. Gli ho dato la testa sanitaria e il coso, il documento. Mi ha registrato, mi ha dato un codice P, mi ha dato il posto, come si chiama, tipo le code, là. Lo collega al computer e ci infila la cosa, la testa sanitaria. E ci sulla sanità, hai capito? Quando devi cominciare le visite, se c'erano latte, tutto se sei stato ricoverato, tutto quanto, da là alla testa. E adesso l'altra settimana lo faccio fare dalla farmacia di qua, vedete, se lo fanno loro. Ah, io penso che sì, 3 euro ho pagato 3 euro mi ha dato il porta destra, che è un piccolo apparecchio piccolino, come hai detto, la consigliamo allo sinopo, poi che computer e poi inserisci la testa sanitaria. Guarda che ce l'hanno tutti i dottori, ce l'hanno più o meno, l'ha attaccata computer, no? Hai capito? Paghi solo 3 euro, io ho pagato 3 euro per salire, e mi ha dato subito. E mia figlia è stata a prendere e si è collegata, è controllato tutto, dalla testa. No, non potevo, adesso vedo altra settimana. Entro in settimana se riesce a farlo, se no lo dichiaro la dottoressa. Ma la dottoressa non vede nulla la dottoressa, non vede la dottoressa. È la farmacia che devo fare questa cosa. La dottoressa non vede nulla. La dottoressa è la farmacia, secondo i zenni. Te lo chiedo se me lo fa. E se ce l'hanno lo fanno sì. Penso che ce l'hanno tutte le farmacie, roba. È un quello nuovo che è uscito, capito? La prima nuova che è uscita, almeno è per evitare anche la fila. Anche per il sette, tutto, tutta roba della... Ti controllo di tutto, dalla alla testa. Bene, avanti, Bacchini. Una comunità. Una comunità. Adesso, per andare da Ulivo, bisogna fare un cazzotto di papiri. Poi ci vogliono guanti, mascherina. E adesso me la faccio più. Vabbè, tu devi stare sull'ambulanza, ma se mi sono partito, ti ha parlato qualcosa che sono colpiti sopra sicuramente, dalla come si chiama, dallo studio, mi fa colpire il foglio per il Covid e per così via, tutto qua, avanti, ma che? Papiere, sempre papiere marino, e così andiamo avanti. Adesso vediamo dove io la mettiamo fuori, cosa mi aspetta da pagare. Da pagare, ti sta a pagare la lastra. Tu vai intanto con l'operativa, pagherai il ticket, pagherai un ticket e ci sta. Adesso poi la testa ti dia solo il dischetto, che ti dia il dischetto, con il dischetto tu lo vai all'ortopedico, lui lo controlla e poi ti dà la cura, tutto qua. Speriamo bene, dai, che si risolva subito. Avanti, to. Infatti. Finisce subito, ora manco così, fatto un vato non vi pensi più. Allora, le analisi delle urine si pagano, le analisi del sangue si pagano, le visite ortopediche si pagano, e tutto pagherò, l'ambulanza si paga. Infatti l'ambulanza si paga sì, secondo quello che devi andare si paga sì, è tutto a pagamento, devi intendere. Magna, non si negava più figli. Ma tu non sei assente dal ticket? Al ticket non lo accettano, niente, questa è una cosa, diciamo così, di un'urgenza e non accettano. E andiamo bene, andiamo. Dai, dai. Siamo stomodulati. Dunque deve pagare la vita dall'altra normale, che sappite. Nella medicina pago la metà. La metà, quindi 65 centesimi pago. E le medicine c'è lo sconto lo stesso. E tutte le cose, invece questa è urgente, non lo fa. L'urgenza si la paga in fila, boh. Questa è bella, questa è bella. Non basta le tasse, stiamo pagando per pagare la cosa intera, boh, la droga, ma ti so. Non lo sai che così. Se no devi fare in fretta, ti fai tenere bagà, se no ti fai tenere la città a mesi e mesi. Sì, vabbè dai, interessante, risolvi il problema, poi marchiamo il fumo, dai. Interessante, risolvi il problema, sennò guai. Fatto, dovrebbe seguire avanti, ma sì. Se non vuoi spendere, se non vuoi tirar fuori una lira dalla tasca, aspetta, dopo gennaio, aspetta, intanto cavallo mio cruce l'erba. Capito? Così di analisi, c'è la fila che non finisce più, per via di questo cavolo del virus, che sono intasati. E se uno non c'ha soldi deve morire, come deve fare? Se uno va via a morire, boh. Per esempio non so, neanche gli analisi, non si chiede andare a ritirare questa qua. Tanto se questa scheda qua te lo puoi controllare a casa, capito? Tutto l'esito dalla alla Z. Infatti, io faccio di quella maniera adesso. Ma glielo chiedo a vedere se lo fanno loro. Se lo fanno me la voglio subito. E allora, se lo paghi, almeno se lo si collega al computer non devi fare, non devi fare nulla. Potevo controllare le ricette, ti fai. C'è molta roba che è interessante, capito? E già, avanti, chi è che mi sta chiamando? Ma avanti intendo 2 volte, 9:40 sì. Adesso ti sento forte. Ma chi come lo senti a Bruno? A Bruno io lo sento forte, anche saturo. Ciao Bruno, buonasera. Avanti ancora. Bruno! Io lo sento. Ma stai arrivando a colpi, stai arrivando. Cosa stai toccando? Perché stai arrivando a colpi. Poco fa stavi uscendo bene, adesso stai arrivando a colpi. La modulazione, qui lo tocca che non tocca. Infatti. Sei quello lì, infatti. Aspetta a vedere se ti sente Marino. Marino, tu lo senti a Bruno? Oh, negativo, negativo. Io ho quel RNAT, non lo ascolto, zero e foto zero, né segnale, né radio, nulla, zero proprio. A me mi senti? A te ti ascolto, Franco, buonasera, ben fatto. Ciao Marino, ciao Bruno, scusate per poco fa perché è mancata la corrente. Cosa hai fatto senza la cassa fusibile? Sta pagando la corrente, fra. La corrente è staccata, stava attaccando l'amplificatore, ha scattato, non ce la facevo. Ha brincato tutto, andiamo, fra. Avanti, Bacchì. Vediamo un po', se Bruno ha sistemato qualcosa, avanti Bruno. Guarda, ci deve essere qualche piede a massa, ciao Bruno, buonasera. Sì, Daiglia. Bacchisio, meglio mi ascolti adesso. Bombola sì, fra, una bombola sì, di lusso. Comunque, cercando di dirigere più forte, il segnale è abbassato la focanza dentro, no, fra? L'ha messa fuori, Vari, quell'antenna. Sì, ma poc'anzi viene arrivato in Santiago 8, adesso 7. Vabbè, dai, però così non disturba, capito? Perché è fuori, perché adesso ho aumentato un po', dai, vedi un po'. Fai un altro passaggio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, arrivi quasi a 8, arrivi, dai. Vabbè, dai, comunque la radio è buona, fra. Ma tu l'ascolti a Bruno? Arriva a 9, 10 qua. Oh, io lo ascolto, Bruno. Boh, 0, 0, 0, vabbè. Vabbè, tu sei vicino, dai. Tu stai arrivando a Santiago 7, 7 e mezzo, 8 moduati. Bacchisio 9.10, 9.20 adesso. Non so, tu sei vicino a Bruno, io ho 0, non l'ascolto, 0 e poco 0. Bene, avanti, Tore. A me, Franco, mi arrivendi 9.20, mi arrivendi. Già vai bene. Tutto bene, tutto è andato bene. L'ho messa tu fuori dalla finestra, l'antenna, capito? Dentro casa non rende. Non rende, no. Figuriamoci con questi muri. sicuramente per i muri di cantoni. No, veramente sono muri di trachite e poi sono pareti importanti, capite? Per quello che il segnale arriva basso lì. Adesso l'ha messa fuori però all'altra parte, capito? No alla parte tua, all'altra parte. Pensa tu se la metti all'altra finestra. È che non ci arrivo col caldo, eh? Sì, già ti sento. Santiago 7, però 0-0 quasi. Ok, ciao Bruno. Avanti, signor Bacchi. Ciao Bruno, buona serata. Sistema il toro, qualche saldatura da fare e la strada, vai. Andrà bene, allora che c'era poi? Boh, lo faccio fino. Dunque, l'antenna mia però, detto lei, ha un metro da terra, non di più quella che ho preso. Ci posso lavorare in giro, posso fare tutto ciò che voglio. Ciao, sentito hai? KK, ho sentito benissimo. Mi sta arrivando benissimo qua, Bacchisio. Pioggia c'è, la pioggia gli fa bene, si è lavato la faccia. Adesso sicuramente il segnale mio è più forte, no, Bacchi, da te? Io, no, sei 9,5, oscilla, 9,5, 9,7, siamo in quei passi lì. Il picco è di 9,10, poi cala. KK. Avanti, signor Mari. E ora, salutiamo Bruno, ciao Bruno, se li stai ascoltando, ma ben sentito l'ora che non ti ascolto. Ok, sentiamo, vai. Saluto la signora. Avanti, ma chi? È così la questione. Vediamo un po'. Quando mi fa le cose un mio amico, che mi guarda con la giorgia lì. Sì, che veniva per una settimana con lo controllo, magari l'aveva controllato, magari lo sta provando, ma sì. In settimana si chiama, saliamo e ci accendiamo, vai. Andiamo bene, vai. Avanti, Tore. Io. Sì, è così, andiamo. No, Giulia. È così, signor Bacchi. E adesso aspetta un attimino, io apro questo microfono. Ah, mi ha rotto i piedi. Sono col PTT abbassato e sciatta. Sciatta, ce deve essere... No, se ne è andata la molla o ti sta dicendo arrivederci? Ah, il nuovo, quello del corso, ma l'ho usato questo film. Se no l'ho usato 10 volte. Della 889. E certo, sempre difettoso, adesso ci sia. Qualche bavatura che non lo fa abbassare bene, e allora salta. Si entra da che cosa? E si blocca vicino. Però la modulazione è bella pulita, perché è bella pulita, limpida, eh. Quel microfono lì deve darsi la catta. Io ve la già un abbatti, vi raggio. Ok, dai. E qua stai usando il 14 stai usando, o no? Il? 14 stai usando l'apparecchio? Il 14? Eia! Andava. Va troppo bene, la tua modulazione pulita. Se noi ci pulito con chi su? Certo. Avanti tra. Mari, guarda, te l'ho recuperata quella cosa, l'ammi, capito? Manda un messaggio su WhatsApp perché non ho capito, vai. Poi ci sentiamo, vai. Ok, bene. Vediamo, c'è un Bacchisio. Ma lì siamo smontato. Ah, smontelli, sì, bobo, andiamo bene. E allora fra, il trabacco tutto ok, sì. Tutto K. Vedi così, dai. Avanti, sto. Sì, domani mangiamo, mi faccio una baseggiata, pigliamo il giornale, a Risetti, piano, Urugani, andendo, e poi una durrata. Ehi, a Risetti, ti devo andare 4 mesi, la manca ti prendi un po' di fresco, ti prendi, fai un po' di putti e sei a posto. Ah, Risetti, si arrabbia il giornale, non da macchina, si arrabbia Risetti. Io vado alle 7 e è già aperto. Ah, tu vai alla cavaliera, vai, no? Allora, chi so, l'otto e mezzo, che se no che Santa Maria di Bisa. Questo qua è il signore, ormai fa dei soldi. Ma se tu non è come cavaliere, che ormai andiamo a cagliare. Non conosci come ti ha fatto cavalieri. Meglio nulla, per carità. Allora, sei da personaggio, sai. Veramente fatti conoscere, ormai. Avanti fra. La gente mangia merda, c'è sempre, non c'è niente da fare. Purtroppo è così. Gigante, camminato di smontare? Smontando, avanti qua. Sì, ha smontato tutto. Ha tutto il QRL, ha dato via il QRL. A Setti, ma arrivi a Setti, ma arrivi, ah, si è abbassato lo gozo, lo squelch. Sì, sì. Ti è entrato, ma sì. Andiamo, no, la mente non esce. Domani il giorno, lo facciamo. Domani il giorno, lascia così, è un cucimignato. Sì, vabbè, lo fai con calma domani, Battista, che sei a posto. Avanti fra. Poi te la vacconi da chi? Il favolaccio, mi faccio un volo, lo prendo il mio. Non ha bisogno di volare, però. Basta farlo volare, non c'è problema. Quando c'è l'incalcato, salta. Portagli un po' di CRC magari, di quello marino, di quello per i contatti. Domani, domani continuo a vederlo e poi, siccome l'intervento ce l'ha fissato per il settore del mattino, non faccio domani. Colazione, la colazione non fai, Battista? Sì, non ce l'ho più, non ce l'ho più. E lo so, va bene, allora ti passo la mattinata, va, ne fai l'intervento. Bene, vela, avanti, Tore. Fate così, intendemi, continui tu a rischio, ci abbiamo in Sardegna con le navi. Ma ci abbiamo a rischio? Continui tu a... quanto gasotto, grande gasotto avanti il gigante, vedrai che dopo Natale chiudiamo tutto, tutto chiuso. Ma io abbia fatto una cosa. Se non fai ciò che ti dico, o fai così o se no parvi. E abbiamo buttato altre navi diverse. Certo. Cosa è il ciò di freno con questa gente qua dallo Stato? La Sirenia? Il ciò di freno? È una cosa pazzesca. Io ne ho parlato, ma non si franchi, ha parlato. Oggi non credo. Io devo anche pagare e fai anche il casotto. Avanti, fra. Infatti, non si può più viaggiare, è un casino. Ho l'impressione che stasera neanche viaggia la nave, perché c'è un mare da paura. Oh, stanno bloccati al porto, stanno bloccati. Avanti, va qui. Ehi, domani sto alla spiaggia di Sorso. Domani cannolini ne avevamo fatto a Cargaretti. Sì, mi pare che non venne già più cannolini. E questa spiaggia, ormai ne aveva nevate tutti, a meno che non sia tornato a ripopolare. Ma... boh, no, sta diventando uno schifo, sta diventando. Io sto aspettando che cali questo mare, perché se quando cale che è in caduta vado a pescare. Io invece ma qui su busso va. Ma già me ne butti che se non accompagno devo andare a ritirare. Vabbè, io ne approfitto perché intanto qui. Domani c'è mare, quindi da lunedì è in attenuazione, lo trovo in caduta, quindi qualche bella orata grossa la porto su. Via da te, e meglio così. E avanti, avanti. Avanti, signor Bacchi! Anda bene, ciao Franco, buona serata, ciao Sole e Marino. Io vi saluto, faccio quello qui, ciao già. Via via. Avanti, Marino, riprendi. Benissimo, ciao Bacchi, ben sentito, là, domani si concide, sono pure in casa, avanti sto. Ok, ciao signor Bacchi, mi stia bene. Buona cena e tutto quanto stanotte. Ok, avanti fra. Ciao Bacchi, buon corretti, buon tutto, buona cena e buona cena di ascolto domani se coincide. Ok. Ciao a tutti e tre, ciao ciao. Ciao Bacchi, ciao domani, dai. Ok, bene bene. Anche tu devi fare il nonno a tempo pieno, non c'è nulla a fare. Sei pensionato e così via, dunque il tempo ce l'hai e passa un po' tu in fretta, dai. Infatti. Non basta che ci dice convenni. Tu non a tempo pieno che devo fare. Purtroppo è così, non parlare così perché anch'io sono. Sono la tua situazione, dunque, di quella che farai è quella mia, vabbè. Beh, io guarda, pallone me ne faccio qua pure, ogni tanto mando un messaggio. Da lei non stai. Figurati. Vabbè. fermo, così fermo. E vabbè, sarà così, sarà. Avanti, signor Fra. Ti stavo dicendo, Tom, ma il segnale è sempre ai 9.20. No, adesso è 9, ti sei abbassato a nubi. Perché l'ho abbassato io. Adesso è più forte. No, sempre 9. Allora se ti ha avuto una penna. Questo vento è brutto, Non vedi che te farà daglioso. E oggi non vuole affigliare dove? Uno non è che non c'è nessuno stamattina erano le 4:30, a parte il coso vicco, cioè vedete il coso vicco dove c'è il tabacchino, dove c'è la persona che c'è al supermercato, quell'albero sopra la macchina. Certo. Non vuole rubare osteggio, poi la macchina sotto all'albero buone. Quando fa vento non bisogna mai ponerne sotto l'albero. Poi andando via verso le 10 qualcosa, c'ho due camion, ma visti grossi dei vigili del fuoco, che io vado. Oggi hai travagliato, dai. Infatti. Ma chissà se ve la paga il comune, buru. Chi deve pagare? Chi è il comune deve pagare? L'ho capito. Cioè, ok, non tocca a quello che più comune c'ha quel, come si chiama? Quello che controlla gli alberi e così via, là, che fa le analisi. E no, magari non ha controllato quell'albero pericoloso, da tagliare, da sfruttare, e la debita a lui. Ma sicuramente sì. Perché lui deve guardare a vedere se gli alberi sono a posto. E non che ne gioca giù di due, ne gioca giù di là, sa di. Avranno detto che erano i pericolanti, ha detto no, già sono tranquilli. Meno domani era tutto in terra. Peggio per loro, non c'è a tagliare, deve tagliare, quindi è il vanno. È la linea secca, pratica, mi para. E come penso è, io ho la palma che mi dai già 15 metri, 18 metri altezza. Ma com'è la vedi muovendo proprio la bassa all'asta e rimane attaccata. Avanti Franco, Franco è andato a controllarsi l'antenna tu. Sicuramente sì. Sicuramente sì, se non ne farà daglioso. Allora speriamo di no, dai. Speriamo di no, bene, bene, non c'è nessuno, siamo soli, soletti. Ma c'è un buon carino, vado a bruciare un buro io. Guarda, sto spazzolando qua. Di noi invece non contengo io, con calma, non avete a fianco, sono il palo vuoto, se non posso controllare la caparizia, capisci? Devo solo sempre puntare, per schiacciare devo per ascoltare altre cose. No, io se così annichisco stasera che sono già, boh. Non ha capito, stiamo sentendo la politica della caparizia, e poi ascoltare anche, non capisci? Sono legato alla caparizia. Invece così no, perché devi sempre... che c'è il pulsante, quindi va bene, dai. Già va bene così, dai. Infatti, a far così bisogna fare, vabbè, andiamo così, anda, io era fino a mia gatta. Sì, andiamo. Sentiamo Franco. C'era l'antenna messa male, era rovesciata. Ho immaginato, ogni dopo a Franco esci da fuori a bandare l'antenna. Vuol dire che non è fissata bene, non ne deve scendere, se è fissata bene non ne deve scendere. L'ho appoggiata provvisoriamente fuori così, ho capito. Andiamo via, andiamo. Dai. Vabbè. Ok, riprendo il profitto, dai. Mi sta chiamando mia nipote. Ciao Flavio, hai sentito domani, se coincide. Ciao Tony, anche per te, ciao tutti in casa, e buona carica per stanotte. Fra, mandami quel messaggio che mi devi dire cosa mi devi dire poc'anzi, dai, io non lo controllo, ok? Ciao Tony, tutti gli ascoltori per me quelli, dai. Dai, anche io chiudo. Ciao Tony, ciao Marino, ciao a tutti anche quelli che sono in ascolto, per me quelli, dai. Ciao. Ok, ciao Fra, ciao Marino, statemi bene, buon QRT e buona cena a tutti quanti. Ok, ciao Marino e ciao Franco. Ok, ciao.